Ma secondo me vale un po' tutto, nel senso che José Mourinho non è nuovo a queste situazioni. Devo anche dire che lui andò via dall'Inter annunciando prima Moratti, prima della vittoria del triplete. Quindi da questo punto di vista credo che farà lo stesso con Florentino Perez, nel senso che è molto probabile che lui abbia già deciso che cosa farà l'anno prossimo. Da un lato gli spagnoli ne hanno un po' piene le tasche, no, sicuramente la stampa sì, il pubblico no, nel senso che il pubblico di Madrid, la parte più calda, adora e stravede per José Mourinho. Credo che, insomma, se è vera questa cosa, Jorge Valdano avrà appreso con composto dolore questo Sì, desiderio da parte del presidente, Presidente. perché credo che tra i primi ad essere, insomma, se Valdano ha, ma come avrà, una bottiglia di una buona annata, potrebbe anche averla già aperta una volta capito questo. Trovo che sia tutto comunque molto prematuro, ma per due motivi. Intanto perché dipende molto dai risultati, come al solito, e che vanno letti in una doppia chiave, cioè se Mourinho ottiene subito risultati va via sicuro, perché anche lui, mi pare di capire, non abbia più tutto questo piacere di restare a Real Sì. Madrid. Forse anche per una situazione ambientale che ha contribuito abbastanza lui a creare. Dall'altra parte, se non vince, è forte anche di un contratto che non è lunghissimo, ma comunque è lungo, può dire va bene, cerco di rimanere per far vedere che vinco. Insomma, il Real Madrid non ha una buonissima tradizione nelle ultime annate di Champions League, quindi secondo me gli sarà anche abbastanza facile migliorare la posizione degli ultimi anni. Poi quello che succederà, secondo me, lo scopriremo ad aprile, Certo. perché mi sembra che non sia Senti, ancora, non sia ancora ora.